indagato, indagherà su eventuali episodi di corruzione per quel che riguarda la regione. Beh, davvero un qualcosa che, se non altro, stona. 24 mattino. Allora, sono le 8 e 22 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, vogliamo parlare di quello che è successo sul Concordia, Costa Concordia, la tragedia del Concordia. Raccontano i giornali oggi, sono stati trovati ieri altri 5 cadaveri, 11 le vittime accertate. E l'Italia che si è divisa, si è spaccata, l'Italia ha già emesso in qualche modo la sua sentenza, questo comandante che avrebbe abbandonato la nave, bisogna usare il condizionale perché lui ieri nell'udienza di convalida del fermo con il GIP che l'ha rispedito a casa agli arresti domiciliari ha detto: io non ho abbandonato nessuna nave, sono scivolato in acqua su una scialuppa. Ma certo, l'Italia ha già emesso una sorta di sentenza, si vede già dai giornali, dai titoli di oggi, con l'Italia che ha scelto il comandante, il capitano di fregata Gregorio De Falco, colui che della capitaneria di Livorno gli ordinava di andare a bordo, è considerato come colui che in questa tragedia si è comportato nel modo in cui si doveva comportare di fronte invece alla viltà. Questo è per esempio il termine utilizzato da Aldo Grasso in prima pagina del Corriere della Sera del comandante Schettino. E allora, visto che ne parleremo fino alle 9, da qui proprio voglio partire, dall'audio di quella telefonata. L'audio della telefonata l'abbiamo sintetizzato, molto intensa. Stanno parlando il capitano di fregata Gregorio De Falco della capitaneria di Livorno e il comandante Schettino. Prima però di questa, vorremmo partire da questa, voglio salutare e ringraziare il procuratore capo della Repubblica di Grosseto, Francesco Verusio. Procuratore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, il GIP ha deciso di concedere gli arresti domiciliari al comandante Schettino. Lei come commenta questa decisione? Guardi, è una decisione che non capisco per certi versi e non condivido. Comunque in questo momento proprio sto andando in ufficio, vorrei leggere le motivazioni che hanno determinato il GIP a questa decisione. Non capisco veramente. Credo che il mio ufficio presenterà ricorso contro questa decisione. Presenterà ricorso. Ma di certo lei ci insegna, diciamo, che non c'è il rischio di reiterazione del reato, questo no, così come di inquinamento delle prove. Forse il pericolo di fuga, lei dice, c'è? Abbiamo motivo per credere che probabilmente c'è la possibilità che lui si possa sottrarre alle sue responsabilità. I reati che abbiamo contestato sono reati molto gravi e prevedono pene molto severe, e considerata la personalità dell'imputato non credo che sia a caso ad aspettare che lo andiamo a prendere magari fra qualche anno per scontare 15 anni di carcere. Perché? Non credo proprio. Che personalità ha trovato nell'incrociarlo, procuratore? È nei fatti, mi sembra. Ce la descrive un po'. Lei dice nei fatti, forse nell'audio della telefonata, però ci dica come. Io il mio dirigo un ufficio di procura, ma mi sembra non mi sento condizionato dal mio ruolo. Mi sembra che sia un giudizio abbastanza obiettivo quello che penso si possa dare sulla personalità di questo soggetto, insomma. Ma lei me lo qualifichi con un aggettivo? No, non mi faccia dire altro. Scellerato, va. Scellerato. Scellerato ma perché, per il fatto di avere che cosa? In cosa è stato più scellerato, secondo lei? L'abbandono della nave? Nella manovra, nell'abbandono della nave, nel non avere diretto le operazioni di soccorso a tutto l'equipaggio, non aver dato nessuna disposizione. Guardi, secondo me è veramente imperdonabile, un comportamento inqualificabile e imperdonabile. Senta, a me ha colpito, forse è passato un po' in secondo piano, ma non certo per voi, che a bordo della scialuppa, lui dice di essere scivolato in mare, c'erano anche il suo secondo in comando e il terzo in comando. Queste persone hanno... Tra l'altro, anche ammesso e non concesso che fosse caduto nella scialuppa, poteva anche tornare come comandante della nave, lei che dice? Lui dice di no, mi pare di capire, perché la nave era inclinata, ma certo non sono il suo avvocato difensore. Ecco. C'è qualcun altro che è tornato veramente, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Ma il fatto che ci fossero anche il secondo e il terzo della catena di comando, queste persone sono penalmente, secondo lei, responsabili? Guardi, stiamo valutando, il problema è che siccome lui era il comandante della nave, la nave era alle sue mani, era lui che doveva disporre tutto. Ora dobbiamo vedere se nella catena di comando si possono ravvisare responsabilità di altre persone che erano comunque tenute a prendere mano la situazione. Si sa, dicono che il motto di ogni comandante sia après moi Dieu, cioè dopo di me c'è solo Dio, e quindi il comandante decide tutto. Senta, per quel che riguarda invece eventuali responsabilità, perché ci sono state anche delle telefonate tra il comandante Schettino e l'armatore, un responsabile dell'armatore della Costa, anche su questo indagherete. Adesso su questo lei sa che abbiamo un segreto istruttorio da rispettare, non posso rispondere su queste cose. Certo. Va bene. Ancora un paio di domande, procuratore. Il comandante Schettino, appunto, ha detto di essere scivolato, lei ce lo conferma, cioè questa è stata la sua. Non vi posso confermare. Questo è uscito comunque sui giornali. Lei comunque l'ha trovato pentito, almeno umanamente, cioè una persona che si è resa conto, forse frastornato, sconvolto, oppure no? Assolutamente. Senta, a me non è sembrata una persona pentita. Dispiaciuto forse per la sua nave e per quello che gli potrà capitare, ma non credo dispiaciuto per quello che ha combinato. Non lo vede dispiaciuto. No. E teme davvero che possa fuggire, secondo lei? Ma poi queste sono valutazioni in effetti che sono magari anche soggettive, anche se supportate da certe circostanze particolari che ci possono far pensare che in effetti sia persona che si possa sottrarre domani a quelle che sono le sue responsabilità. Accidenti, questo è un rischio, insomma, che sarebbe un'immagine devastante anche per il paese Italia di fronte al mondo. Assolutamente sì. Condivido le sue considerazioni, va bene? La ringrazio, procuratore, per essere stato con noi. Il procuratore capo della Repubblica di Grosseto, Francesco Verusio. Insomma, avete sentito, scellerato l'ha definito nel comportamento e nell'atteggiamento. Certo, fa molto discutere anche il fatto che il GIP abbia concesso gli arresti domiciliari per il comandante Schettino. In ogni caso noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto, il GIP è Valeria Montesarchio che ieri ha deciso appunto di concedere gli arresti domiciliari al comandante Schettino. Noi ripartiremo dall'audio appunto di quella telefonata drammatica, ha fatto già il giro non d'Italia ma del mondo con quell'ordine perentorio, vada a bordo cazzo, dato dal comandante di fregata della capitaneria di Livorno, De Falco, al comandante Schettino. Sarà con noi tra l'altro il comandante della capitaneria del porto di Livorno, vale a dire il superiore di De Falco, il contrammiraglio Ilarione Dell'Anna. Tra pochissimo sentiremo anche appunto l'audio dopo pubblicità e meteo. Sono le 8:35 minuti, eccoci qua in diretta dopo aver avuto, lo ringrazio, il procuratore della Repubblica di Grosseto, Francesco Verusio. Molti ci hanno scritto anche polemiche via sms, dire ma come un procuratore che parla? Il capo della procura è l'unico autorizzato a parlare, poi ognuno si faccia le sue considerazioni del caso, così come chi ci scrive la difesa non l'ha sentita, a parte che questo non è un processo. Informo tutti che l'avvocato Leporatti, l'avvocato del comandante Schettino, l'abbiamo contattato dal suo ufficio, non direttamente, ma comunque non rilascia interviste, ha fatto dichiarazione, al momento ha deciso di non rilasciare interviste diciamo singole. Saluto però il contrammiraglio Ilarione Dell'Anna, che è il comandante della capitaneria di porto di Livorno. Comandante, buongiorno e benvenuto a Radio 24.

che ci forniva non erano risposte di un soggetto, non un soggetto qualsiasi, ma il comandante di un'unità, di una grossa nave, sicuramente frastornato. Frastornato. Senta, lei ha visto che l'Italia ha in qualche modo sentenziato, sa, il popolo della rete, l'opinione pubblica ha eletto De Falco, il comandante De Falco, a una sorta di eroe di fronte a invece al vile comandante Schettino. Questa è la traduzione, insomma, di quello che l'italiano medio pensa. Lei è concorde oppure si sta esagerando? No, assolutamente, io non mi posso pronunciare su queste due posizioni contrapposte, soprattutto di quanto espresso nei confronti del comandante della nave, poiché c'è un procedimento penale in corso e quindi il nostro ordinamento, ecco, non consente di emettere sentenze in anticipo. Nei confronti del mio ufficiale, che ha mantenuto il tenore della telefonata così come l'abbiamo ascoltato, condivido la sua perentorietà e l'animosità con la quale è intervenuto, anche perché sono momenti di concitazione in una sala operativa, e in una nostra sala operativa, quando ci rendiamo conto che c'è una nave in difficoltà, soprattutto una nave passeggeri con 4.000, anzi più di 4.000 persone presenti a bordo, naturalmente scatta un elevato senso, ma oltre che di professionalità, di solidarietà per assicurare la massima tempestività della macchina del soccorso. Senta, comandante, ci spiega cosa vuol dire abbandonare una nave? Detto che il comandante Schettino pare abbia dato come versione sono scivolato in acqua, ma questa è una vicenda che se la vedrà, insomma, la procura. Che vuol dire per un uomo di mare e per il diritto anche abbandonare la nave? L'abbandono nave per il, comandante. Certo, per il comandante della nave. Sì, certo, lasciare la nave da parte del comandante. Certo. L'abbandono nave ha due momenti. Il primo momento è quando il comandante ordina l'abbandono nave e ha un preciso obbligo di intraprendere questa soluzione, che è la soluzione ultima ai tentativi di mettere in salvezza la nave e gli uomini che ha a bordo. Quando questi tentativi evidentemente sono giudicati dal comandante non più possibili, non più sufficienti, dichiara l'abbandono nave per la salvezza degli uomini che ha a bordo. Ma è stato fatto prontamente, secondo lei, in questa occasione? Ma l'abbandono nave in un certo senso lo ha sollecitato forse la Capitaneria di Porto, perché ci siamo intromessi nelle comunicazioni con nave Concordia, di conseguenza dalla sala operativa ci siamo resi conto immediatamente, i miei operatori hanno valutato, devo dire molto bene, la gravità della situazione che in un primo momento non sembrava così avanzata. E il fatto che il comandante non fosse a bordo, lei come lo giudica? Non le sto chiedendo come lo giudica dal punto di vista processuale, come lo giudica lei? Ma appunto ha abbandonato la nave, si è allontanato dalla nave. Che è una cosa molto grave. Ecco, a differenza del primo, di quelle così osservazioni che ho fatto sul primo significato di abbandono, questo invece, abbandonare la nave, significa che è l'ultimo atto che il comandante di ogni nave compie nel momento in cui non ci sono più possibilità di salvezza, quando tutti i tentativi sono stati esperiti e quando si è assicurato che tutti sono scesi a bordo. Abbandonarla significa che non c'è più possibilità di salvezza. Questo abbandono del comandante Schettini con presenze di equipaggio o di passeggeri, comunque di persone a bordo, sicuramente costituisce anche una violazione, un comportamento penalmente rilevante. Ma più del diritto o più dell'etica da uomo di mare? No, al di là di un profondo significato etico-morale che incombe sul comandante della nave, esiste un preciso obbligo sanzionato penalmente per quel comandante che abbandona la nave prima dell'equipaggio. Certo. Il comandante deve essere ultimo, ed è un articolo del codice della navigazione ben preciso. Allora, comandante, le chiedo un attimo di pazienza, dobbiamo dare le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire anche dal consigliere regionale Marco Manneschi, anche qualche ascoltatore so che ci ha chiamato e lo ringrazio. Intanto lo saluto, Don Lorenzo, il parroco del porto dell'isola del Giglio. Buongiorno Don Lorenzo. Stia con noi, ci ha chiamato come ascoltatore, mi fa molto piacere, una testimonianza diretta tra poco. Allora, Marco Manneschi è consigliere regionale dell'Italia dei Valori in Toscana. Lei è andato in carcere, quando si trovava in carcere ha incrociato per pochi minuti il comandante Schettino. Cosa le è sembrato? Perché il procuratore capo di Grosseto qui ai nostri microfoni ha detto: mi è sembrata una persona dal comportamento scellerato. Ma dunque, quando una persona è ristretta in carcere è difficile che si possa individuare il comportamento da quello che fa, perché i movimenti sono limitati. Lui, l'impressione che mi ha dato è stata di un individuo piegato dalle responsabilità, ecco, visto proprio un'area molto, diciamo, dimessa, umile, ecco, direi questo. Questa è l'impressione che mi ha dato. Lui ha parlato con la direttrice del carcere, io sono andato per sincerarmi dello stato di salute di questa persona, perché le informazioni che giravano rappresentavano una situazione prossima a una profonda depressione, quindi il pericolo di gesti autolesionistici. Devo dire che non ho trovato questo quadro. Ha trovato un quadro più tranquillo. Senta, ha visto che Schettino adesso è agli arresti domiciliari, è una decisione che suscita sicuramente clamore e anche polemiche. Il procuratore ha detto: non la capisco, la valuteremo, faremo ricorso. Lei fa parte tra l'altro di un partito che è spesso accusato di essere un partito giustizialista, no? Che ne pensa del fatto che sia a casa, agli arresti domiciliari ben inteso, ma a casa e non in carcere ora Schettino? Sì, sono degli stereotipi questi ai quali onestamente non sono portato a dare grande importanza. Io ritengo che occorra perseguire appunto la legalità anche con severità in un paese che la legalità l'ha un po' abbandonata da diversi anni come criterio guida delle azioni pubbliche, quindi questo è un aspetto a cui credo tutti dovremmo tenere. Dopodiché giustizialismo non credo sia un aspetto, diciamo, è un aspetto caricaturale, no? Sì, di un'azione sì. che viene svolta per cercare di riportare un paese allo sbando, un po' come questa nave, no? Sembra la deriva. Ma lei vede un po' questa metafora. Mi faccia dare però un attimo da Don Lorenzo. Don Lorenzo, parroco del Giglio, immagino che ci voglia raccontare e ci possa raccontare anche qualcosa intanto di come vive ora l'isola del Giglio e come ha vissuto questi giorni incredibili, no, Don Lorenzo? Buongiorno. Sì, no, dal punto di vista del movimento delle persone è ancora, c'è ancora molto movimento, anche perché ci sono tutti i soccorsi, ci sono i giornalisti, ci sono il personale che sta facendo il recupero, la messa in sicurezza della nave, il recupero dei dispersi e queste cose. Quindi l'isola è ancora tutta per aria, ecco, ma sicuramente la prova è stata molto forte. Senta, è stata molto forte. Ci vuole raccontare anche questo? Ma io veramente volevo parlare di Schettino. Ci dica. Perché è un piccolo, volevo solo aggiungere quelle cose che ho detto, le ho già dette, sì. Le avete trovate, eccetera, e non ho niente da aggiungere rispetto a quello. No, era solamente un dettaglio su Schettino, perché quando io ho parlato con tutte le persone che sono venute da me, e soprattutto quelle che si sono occupate del coordinamento, eccetera, ecco, una persona autorevole, non posso dire di più, ecco, mi ha detto che quello è sceso dalla nave con il telefonino, il computer, gli effetti personali, e cioè non è che è scivolato in mare e casualmente insieme al secondo, come diceva lei Milan, con tutti così, cioè c'è stata una cosa voluta, organizzata, sì, preparata, sì, con tutte le, insomma, anche lei, anche lei non crede, effettivamente è difficile pensare alla casualità che uno scivoli in mare e con lui scivoli il secondo in comando e il terzo in comando e tutti e tre si ritrovino nella stessa scialuppa. E con tutte le cose in mano o nella borsa o quello che era, ecco, cioè questo ha preso le sue cose e se n'è andato. Poi, adesso, perché l'ha fatto? L'ha fatto perché voleva coordinare da giù, gli servivano gli strumenti perché doveva comunicare, io non lo so, però cioè non è scivolato, ecco, punto. Questo è quello che si dice, non lo dico io che non sono nessuno, sono un prete e non c'entra niente. Cioè, l'hanno detto, me l'hanno detto a me le persone che... Mm. Che sono addetti ai lavori. Sì, ma insomma, diciamo che questo. E vabbè, ma insomma, questo poi lo vedrà la procura. Io vorrei tornare, grazie Don Lorenzo, il parroco del Giglio, vorrei tornare dal comandante dell'AN. Comandante, siccome in quella telefonata il comandante Schettino dice: sto coordinando da qui giù, di fatto, è verosimile, è presumibile, è possibile coordinare i soccorsi da una posizione appennellata? Che vuol dire poi appennellata? Ma appennellata è un termine marinaresco che si riferisce soprattutto all'ancora, quando l'ancora è appesa, ciondolante, ecco, all'esterno dello scafo, dall'occhio di Cubia, dalla quale scende con la catena aria. Appennellato significa evidentemente che era sospeso? Era sospeso, quindi non era, secondo quanto ci dice? Appennellato, come termine marinaresco, a questo significa. Cioè non è, quindi vuol dire non essere in acqua, ma sospeso sulla scialuppa di salvaggio a mezz'aria, non so come. Sì. Direi, l'interpretazione che posso dare è questa. E da quella situazione appare poco verosimile che uno possa coordinare alcunché? Beh, non è certo la situazione e posizione migliore per coordinare i soccorsi. Senta, lei oggi, comandante, ha fatto un'intervista anche al Secolo XIX molto intensa, che voglio invitare tutti a leggere, a pagina 3, nella quale ha detto: io credo che in quel momento un comandante... non so, con i 1000 flash nel cervello ha distrutto la nave, ci sono dei morti, la carriera è finita, la tua famiglia saprà, insomma, si è lasciato forse prendere e può essere anche che umanamente sia stato travolto da tutta una serie di immagini. Può essere questa anche una lettura che possiamo dare, cioè umana, proprio del comandante Schettino, che forse probabilmente ha fatto degli errori, anzi lo ha ammesso, e a quel punto si è visto travolto dal senso della responsabilità? Ma probabilmente, ecco, dando cercando di dare una lettura al suo comportamento, ma purtroppo si è reso conto quando però la tragedia ormai si era compiuta, ecco, quando ormai la nave era persa. Questi obblighi o queste valutazioni un comandante naturalmente le deve fare ovviamente prima, ecco, non a caso anche il codice della navigazione, quindi la legge, impone che il comandante debba lasciare per ultimo la nave, ma ha un significato, ecco, non ha un significato solamente, certo, etico, è proprio per assicurare di essersi accertato che tutto abbia funzionato nella e maniera che tutto dovuta per la salvezza degli uomini. Io la ringrazio, il contrammiraglio Ilarione Dell'Anna, che è il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, da cui è partita quella famosa telefonata. Grazie, varie telefonate, grazie anche a Marco Mannesi, chi Italia dei Valori di Regione Toscana, e ci dobbiamo fermare, ci troviamo domattina alle 7:20.